Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccole le notizie in 60 minuti. Roma-Bruxelles, prove di tregua, Juncker in arrivo a Palazzo Chigi. La Grecia scoppia, migranti premono ai confini, tensioni con l'Austria. Oggi a Cipro il vertice dei paesi europei del Mediterraneo con l'Italia. Unioni civili avanti con le adozioni, dice la Cirinnà. Verdini fa litigare, il PD ora al congresso chiede speranza. Iran al voto, 55 milioni di elettori per l'era post sanzioni. Basta trucchi, ora le riforme. A Shanghai Christine Lagarde apre il G20 e striglia tutti. Renzi, in Italia riprendono gli investimenti stranieri. Impresa italiana sul Nanga Parbat, Simone Moro conquista la vetta per la prima volta in inverno. 5 nomi per riformare il calcio mondiale a Zurigo, la FIFA prova a voltare pagina. E allora buongiorno da Anna Migliorati, queste le notizie di questi minuti, anche molte altre naturalmente come sempre le ripercorreremo in questa ora di Effetto Giorno per fare un po' il punto a metà della giornata su quello che sta accadendo. Allora vogliamo però cominciare con una nota positiva e con l'impresa italiana, l'abbiamo detto, il bergamasco Simone Moro ha raggiunto la cima del Nanga Parbat, 8.125 metri in Pakistan, firmando così la prima salita nella stagione invernale. Con lui c'erano lo spagnolo Alex Zicon, il pakistano Ali Spadra, la bolzanina Tamara Lunger si è invece fermata poco sotto la cima. La cordata partita la notte scorsa da Campo 4 è arrivata in vetta che erano le 11.37 in Italia, le 15.37 locali. I quattro alpinisti ora stanno scendendo a valle, domani rientreranno al campo base Nanga Parbat, che non era mai stato scalato nella stagione invernale nonostante numerosi tentativi. Tra gli 8.000 ora resta solo il K2 a non essere stato mai salito nella stagione più fredda. Anche questo sta accadendo in questi minuti, ma la notizia politica che sicuramente della giornata e di cui parleremo anche nel corso di oggi ancora è la visita a Roma del Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. Tante questioni aperte, messaggi incrociati, botta e risposta non proprio accomodanti con Matteo Renzi nelle ultime settimane. Oggi si troveranno alle 13.30 previsto l'incontro faccia a faccia. Allora cominciamo da qui con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, l'hanno già chiamato il pranzo della pace ed effettivamente ci sono le premesse affinché possa essere davvero il momento del disgelo dopo le schermaglie dei mesi scorsi sul tema della flessibilità. Il Presidente della Commissione Europea è atterrato a Roma con le migliori intenzioni, quelle appunto di distendere i rapporti con Roma, di costruire ponti come è stato rivelato dal suo staff, e questa mattina ha incontrato già i Presidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso e l'ex capo di Stato Napolitano, ma il momento culminante è tra poco meno di mezz'ora quando arriverà a Palazzo Chigi. Tanti dossier sul tavolo, investimenti, politiche di bilancio, banche, immigrazione al centro. Ci saranno anche quelle nuove idee per l'Europa del futuro recapitate lunedì a Bruxelles dal governo e contenute nel cosiddetto position paper. Renzi tornerà a chiedere più flessibilità per la legge di stabilità, sulla quale ricordiamo arriverà il giudizio della Commissione in primavera, e insisterà sulla necessità che la politica economica europea cambi rotta. E poi l'immigrazione alla luce delle fortissime tensioni che stanno attraversando tutta Europa, in particolare la rotta balcanica, con i muri voluti da Vienna che rischiano di incrementare l'afflusso di migranti anche verso l'Italia. Qui Roma è d'accordo con Bruxelles, no a una mini Schengen, sì alla redistribuzione dei migranti. Infine le banche, con le asimmetrie dell'unione bancaria e la rigidità delle regole europee sugli aiuti di Stato. Lo staff di Juncker ripete che non saranno prese decisioni specifiche, si tratta di un incontro interlocutorio, l'obiettivo, come si diceva, quello appunto di distendere i toni. Vedremo davvero se sarà così alle 15 quando è prevista la conferenza stampa. E se ci sarà la famosa stretta di mano. Grazie allora Alessandra Schepisi. Allora sentivamo tra i dossier, tra i più scottanti di queste ore, quello dell'immigrazione, perché in Grecia i migranti premono e perché a Cipro proprio oggi si incontreranno i ministri degli esteri dei 7 paesi europei affacciati sul Mediterraneo, e tra questi c'è l'Italia. Invece di stemperarsi, la tensione in Europa sulla questione dei flussi migratori si sta alzando sempre di più. Dopo essere stata esclusa dal vertice tra l'Austria e i Paesi Baltici, la Grecia, dopo aver richiamato il proprio ambasciatore a Vienna, ha rifiutato oggi la richiesta di visita avanzata dal ministro degli interni austriaco. Non solo, il ministro greco dei trasporti, Theodoris Dritsas, ha chiesto alle compagnie di traghetti passeggeri e alle agenzie di viaggio di interrompere temporaneamente il servizio di trasferimento di migranti e rifugiati dalle isole sulle quali arrivano dalla Turchia alla penisola greca e ha annunciato che le navi noleggiate dal governo per questo tipo di trasferimenti resteranno ferme per qualche giorno. Tensioni che preoccupano anche Mosca, come ha detto il capo dell'Agenzia federale per l'immigrazione russa, Romodanovsky. E mentre al confine franco-belga si teme la pressione dei profughi che sono ora accampati nella giungla di Calais, ma che stanno per essere sgomberati, i Balcani sono vicini al collasso. Sul confine macedone premono più di 2.000 rifugiati che hanno sfondato le barriere di recinzione, ma un gruppo di pakistani è stato anche intercettato in Albania mentre cercava la via verso nord puntando sul Montenegro. Un segnale chiaro: bloccata la porta macedone verso i Balcani, la nuova rotta punta verso l'Albania e poi verso la Puglia. Si dice che gli scafisti stiano già preparando i motori dei gommoni per questo nuovo remunerativo esodo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E già vi anticipo, continueremo a parlarne, andremo anche a sentire proprio cosa succede in Grecia. Intanto in Italia i carabinieri del ROS hanno fermato a Mestre questa mattina un macedone, avrebbe reclutato aspiranti mujahideen che un imam bosniaco avrebbe poi arruolato nell'ISIS e avviato verso i teatri di guerra medio orientali. Documentata la partenza dall'Italia almeno di 3 persone, 2 dei quali sarebbero già state uccise tra il 2013 e il 2014, così il procuratore aggiunto di Venezia. Consideriamo un importante risultato quello oggi conseguito, perché è stato posto in stato di fermo un cittadino Veapia Gian, che è sicuramente considerato come uno dei più attivi reclutatori dell'Italia del Nord. E ovviamente strettamente collegate alla tensione sul fronte dei migranti c'è la questione in Siria. Dovrebbero essere ore di tregua, ma la situazione è ben più complessa. In questo quadro si innesta ancora anche la questione turca. Sorride alle telecamere Can Dündar, direttore del quotidiano di opposizione laica turca Cumhuriyet. Oggi è il compleanno del presidente Erdogan e siamo felici di celebrarlo con questa decisione, dice ironico. Hanno passato 3 mesi in carcere, lui e il suo caporedattore Erdem Gül, per una inchiesta sul passaggio di camion carichi di armi tra la Turchia e la Siria, che irritò parecchio il presidente Erdogan. Ieri sera il Tribunale di Istanbul ha disposto la loro scarcerazione, dopo che la Corte Costituzionale ha definito la loro detenzione in attesa di giudizio una violazione dei diritti. Una sentenza, dice ora il direttore Dündar, storica per la libertà di stampa turca. Più di 30 colleghi sono ancora in carcere, aggiunge. Quanto alle armi in Siria, dovrebbero tacere dalla mezzanotte di oggi. Le forze in campo, governative, di opposizione e curde, intenderebbero rispettare il cessate il fuoco previsto dall'intesa russo-americana e i negoziati intrasiriani dovrebbero ripartire il prossimo 7 marzo a Ginevra. Se tregua sarà davvero. I russi hanno già detto che non intendono sospendere le operazioni aeree contro i terroristi ed Ankara, da parte sua, ha sottolineato come la tregua non sia vincolante per la Turchia in caso di aggressioni curde. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si guarda, lo dicevamo anche ai titoli, oggi all'Iran sono aperte le urne per le prime elezioni dopo la fine delle sanzioni occidentali. Occhi puntati ai riformisti che si presentano con una lista che già nel nome dice molto, si chiama La Speranza. 55 milioni di elettori, voteranno 4.844 candidati, ci sono anche 500 donne, ma a Teheran c'è Alberto Negri. Alberto, benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Allora, ho detto correttamente La Speranza, la lista dei riformisti? Una lista della speranza, sì. Una lista della speranza che però non dovrebbe essere troppo disillusa, perché, come ha detto bene oggi l'ex presidente Hashemi Rafsanjani, che ha votato nel seggio di Jamaran, dove viveva l'imam Khomeini, ha detto, commentando la squalifica dei candidati riformisti ha detto si è trattato di una vera e propria ingiustizia. Perché cos'è accaduto? Il Consiglio dei Guardiani, che è uno degli organi di supervisione del potere qui in Iran, nei giorni scorsi ha squalificato centinaia, migliaia di candidati del fronte riformista. In pratica qui a Teheran ce ne sono rimasti in lista 50 su 1000. Quindi insomma, speranza un po' azzoppata. Una speranza un po' azzoppata, una lotta impari tra i due fronti, il fronte dei riformisti e dei moderati, che fa riferimento al presidente Hassan Rouhani, e quello dei conservatori, l'ala dura, quello degli ayatollah più rigidi, quello dei Pasdaran, il braccio militare della Repubblica Islamica. Che cosa ne uscirà fuori da questo confronto? Innanzitutto, come dicevi giustamente tu, è un voto comunque importante perché arriva all'indomani dell'accordo sul nucleare, che restituisce all'Iran il suo ruolo sulla scena internazionale. E poi soprattutto in un momento di grande tensione internazionale. Gli iraniani si augurano in qualche modo che Rouhani possa averla in qualche modo vinta, che non abbia troppo ostacoli nel futuro al governo di un paese che Alberto, chiede naturalmente di fare passi avanti. Gli occidentali cosa si chiedono? Ma gli occidentali si domandano quali saranno gli equilibri. Si vota non soltanto per il Parlamento, per il Majlis, ma anche per l'Assemblea degli esperti, che è quella che dovrà eleggere la futura guida suprema. Oggi è Ali Khamenei, che ha 76 anni, malfermo di salute, prepara la sua successione. Ma la lotta vera qual è? La lotta di sostanza è tra chi vorrebbe in qualche modo mettere sotto sorveglianza i poteri del paese, anche la guida suprema, e chi invece vorrebbe continuare col sistema della Repubblica Islamica come è stato fino adesso negli ultimi 37 anni. È una lotta lunga, è la battaglia che è appena cominciata. In qualche modo è una battaglia anche tra chi in qualche modo vuole aprire l'Iran all'esterno e chi vorrebbe aprirlo sì dal punto di vista economico, ma meno dal punto cinese, di vista politico, liberalizzazione insomma. Economica, ma stretto controllo sulla vita politica e sociale. Tu sei lì, Alberto Negri, a Teheran. Non mancheremo di raccontarvelo ancora. Grazie nel frattempo. Torniamo anche alle questioni italiane. Dicevamo, nonostante la travagliata approvazione da parte del Senato, il dibattito sulla legge sulle unioni civili non si è ancora spento e la Cirinnaggia pensa alla prossima tappa, le adozioni per le coppie omosessuali. Dopo il primo via libera al Senato, quello più difficile, il disegno di legge sulle unioni civili continua a dividere il mondo politico, la battaglia non è ancora vinta per il Premier, tanto che Matteo Renzi ammette di averci messo la faccia, anzi di più, con la fiducia, dice, ho rischiato l'osso del collo. Una scelta in extremis per il Presidente del Consiglio che si è trasformata in un test per il Governo. Intanto in furia la polemica sui voti essenziali di Denis Verdini e dei suoi per andare oltre la soglia dei 161, ovvero della maggioranza assoluta a Palazzo Madama. 18 senatori su 19 di ala hanno votato la fiducia, una mossa che acuisce i malumori della minoranza democratica. C'è poi la preoccupazione per il vuoto legislativo in ambito di adozioni, avvisa il guardasigilli Andrea Orlando. Gli risponde la prima firmataria della legge, la senatrice Dem Monica Cirinnà, assicura che un disegno di legge sulle adozioni per le coppie omosessuali è quasi pronto, ma verrà incardinato alla Camera, dove i numeri sono più sicuri, per farlo arrivare blindato al Senato. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lite del PD sui numeri di Verdini, con Speranza, tra l'altro, che dice ora un congresso per decidere l'identità del partito. Ma al di là delle questioni politiche restano i fatti, deve passare alla Camera, ma questa dovrebbe essere la legge sulle unioni civili. Allora, istruzioni per l'uso, cosa cambia? Ne parleremo più avanti. Intanto invece la notizia degli ultimi minuti, lo scandalo sanità in Lombardia, c'è stato un arresto eccellente a Miami negli Stati Uniti, preso il contabile della cricca Stefano Lorusso, accusato di riciclaggio, considerato l'architetto delle società all'estero con Rizzi, era ricercato dopo l'ordinanza di custodia del Tribunale di Monza, cercheremo anche su questo di saperne di più. Atteso a breve a Palazzo Chigi per incontrare Juncker, dicevamo, Matteo Renzi questa mattina era invece a San Casciano Val di Pesa per l'inaugurazione dello stabilimento Laika ed è tornato a parlare di investimenti stranieri in Italia. I numeri degli investimenti stranieri in Italia sono cresciuti molto Tra il 2013 e il 2015 noi siamo passati in Italia da 12 miliardi di investimenti stranieri, anno 2013, dove le cose non sono andate granché bene, a 74 miliardi lo scorso anno, da 12 a 74 miliardi, è una svolta. In alcuni casi, come per l'AICA, con il controllo in mano a degli investimenti stranieri, nei due terzi con partecipazione di minoranza. Segno evidente che l'Italia è tornata a essere attrattiva, è tornata ad essere un partner affidabile anche per gli investimenti. Investimenti che riprendono, i governi facciano più velocemente le riforme promesse, basta trucchi, dice da Shanghai. Intanto il direttore del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, questa mattina da poche ore si è aperto il G20, naturalmente c'è anche l'Italia con il ministro Padoan e c'è Rita Fatiguso, benvenuta. Ciao, come va? Allora, la situazione è abbastanza complicata, eh? Allora, la come Cina va in questo G20? Bene, di sapete, cosa si è parlato fino ad ora? Allora, innanzitutto stamattina c'è stata una grande performance del governatore della People's Bank of China, che ha dovuto con il suo prestigio e in una conferenza stampa molto ben articolata, in cui ha affrontato appunto tutti i problemi, soprattutto anche del suo paese, che è la seconda economia del mondo, e ha dovuto spegnere un po' le fiamme dell'incendio di questi giorni, perché sapete che anche ieri la borsa cinese ha accumulato delle perdite enormi, lo yuan ovviamente, la moneta di Pechino è sempre più in caduta libera, e quindi ci sono degli elementi, la crescita non sarà quella attesa dell'anno scorso, ma molto più bassa, quindi si presenta questo G20 in cui fa il padrone di casa per la prima volta nella sua storia, con tante cose da dover giustificare, però la crescita è un po' il sostegno, la crescita, il tema di questo G20. Il tema di questo G20. Allora Rita, è veramente le prime battute, perché i lavori entreranno poi nel vivo, l'appuntamento naturalmente anche con te nel corso della giornata, per noi però sono le 13:16 minuti, il traffico, torniamo con le altre notizie. Effetto giorno. 13:19 minuti, ancora buona giornata da Anna Migliorati. Le molte notizie di queste ore: Roma-Bruxelles, prove di tregua, Juncker in arrivo tra pochissimo a Palazzo Chigi, e poi ancora la Grecia che scoppia con i migranti che premono ai confini, la tensione con l'Austria e il vertice oggi a Cipro dei paesi europei del Mediterraneo con anche l'Italia. Lo scandalo sanità in Lombardia, arresto eccellente poco fa Miami, preso il contabile della cricca, e l'impresa italiana sul Nanga Parbat, Simone Moro che conquista la vetta per la prima volta in inverno. Il focus in questo momento però, per quanto ci riguarda, va alla Grecia. Potrebbe esserci sempre tesa, dicevamo, la situazione, non vogliamo essere il nuovo Libano, dice Atene, lo ha ribadito ieri, potrebbe esserci un nuovo fronte anche verso l'Italia dei migranti, verso la Puglia, perché premono ai confini con lo scacchiere balcanico che chiude le porte. Allora andiamo in Grecia, cioè, per capire davvero cosa sta succedendo, andiamo a Policastro, dove c'è Giovanna Di Benedetto, portavoce Save the Children in Grecia. Benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. La situazione lì qual è? Siamo davvero già ad una situazione di crisi umanitaria? La situazione è sicuramente critica, perché il cambio delle procedure ha creato una situazione molto complessa. Allora, diciamo che al campo di Idomeni, che è il confine tra la Grecia e la Macedonia, al momento ci sono circa 3.500 persone. Io cerco di elencare un po' quelle che sono le criticità. Allora, diciamo, sì, che da quando non è stato più concesso agli afghani l'accesso, due si fermano lì, fanno tappo, insomma. Non solo si fermano, due giorni fa sono stati evacuati circa 1.200 afghani, che quindi sono stati costretti a tornare verso Atene, quindi c'è un movimento che dal confine va verso Atene. C'è poi un altro movimento invece che dalle isole, ricordo che solamente la settimana scorsa sono arrivate in Grecia in tutte le isole circa 22.200 persone in una settimana. Persone che vagano quindi in qualche modo per il paese, verso il confine, verso Atene, allora, provano a muoversi. Queste persone Assolutamente, dopo la registrazione nelle isole vanno verso Atene, prendono il traghetto, da Atene cercano di raggiungere tutto il confine. Quindi c'è un movimento che per ora va dal confine verso Atene, un altro da Atene verso il confine. Solamente ieri mattina sono stati fermati circa tra i 50 e i 72 autobus lungo la strada con persone quindi che sono state costrette. E quando vengono fermati, dove vengono portati? Ecco, vengono fermati, ecco, non si sa bene, cioè in zone in cui non c'era accesso ad alcun servizio, non hanno avuto informazioni, c'era possibilità di cibo nel luogo dove dormire. C'è poi una zona a 27, è un'area di parcheggio, un'area di parcheggio di una stazione di servizio che è a 27 km dal confine, dove gli autobus sono stati costretti a fermare molti autobus. Stamattina c'erano lì circa 800 persone. Senta, Di Benedetto, io le faccio questa domanda. C'è il rischio che queste persone decidano di attraversare l'Adriatico e queste scene potremmo vederle da noi a cominciare dalla Puglia? Guardi, io questo sicuramente non glielo so dire con certezza. Qua c'è sicuramente una situazione di grande criticità e di grande difficoltà, sono fortemente a rischio soprattutto le persone più vulnerabili. Faccio solamente un esempio, in questa stazione di servizio a 27 km dal confine le persone cercano ugualmente di andare da questa stazione di servizio al confine a piedi. Pochi giorni fa una donna incinta, le acque le si sono rotte mentre camminava lungo la strada, quindi una situazione di estremo pericolo. Noi infatti come Save the Children abbiamo incominciato due giorni fa a distribuire anche delle torce, cioè proprio per cercare di aiutare queste persone che si muovono anche di notte e naturalmente anche di estremo caos. Grazie Giovanna Di Benedetto, portavoce Save the Children, grazie per essere stata con noi. Queste le scene di cui che si vedono in Grecia mentre si discute, dicevamo, nei vertici internazionali, e ne discuteranno tra pochissimo probabilmente a Palazzo Chigi anche Juncker e Renzi. Riforme, riforme, riforme. Non parliamo di politica questa volta, ma di calcio mondiale. Dopo l'inchiesta e lo scandalo ci prova la FIFA. Nuovamente riuniti a Zurigo. Niente forze dell'ordine per il momento, pare non si siano viste, ma ci si prova comunque. Dario Ricci. Sì, buongiorno da Zurigo, Anna. Hai detto bene, il piatto forte della mattinata sono state le riforme, quello del pomeriggio, ma di fatto il banchetto pomeridiano è già iniziato, sarà l'elezione del nuovo presidente della FIFA, il successore di quel Blatter che dal FIFA Gate è stato travolto insieme al suo delfino Platini, almeno finora. Sono già iniziati i discorsi dei cinque candidati, due i più forti, lo sceicco del Bahrain Al Khalifa, che ha parlato al cuore dell'Asia, la sua confederazione di riferimento, e sta parlando in questo istante il suo principale avversario, Gianni Infantino, il segretario generale dell'UEFA, che ha stupito la platea oltre che per la competenza anche per il suo essere straordinario poliglotta. Ha iniziato salutando in italiano e poi si è rivolto alle varie confederazioni via via in portoghese, spagnolo, inglese, francese e arabo. Insomma, chapeau, ecco, concedendomi una battuta in francese. Francese è stato anche, farei sentire la sua voce, quello che è stato il presidente della commissione riforme questi mesi, François Carrard, che così ha parlato questa mattina al congresso. Changes to FIFA's culture, the governance of the organization, the level of participation of stakeholders. Ecco, da Carrard, Anna, è arrivato l'invito a cambiare la cultura della FIFA, così come a cambiarne la governance. Invito protocollo accolto, direi, dal congresso che ha varato le riforme, le più importanti fra le quali il numero dei mandati, che non potranno essere più di 3 per il presidente, anche per i membri dell'esecutivo, quindi per un totale di 12 anni, anche il rendere noti poi i compensi di quelli che sono gli stipendiati FIFA. Scusate, gli stipendiati FIFA, e da qui era nato gran parte dell'inghippo. Ci hai mandato un altro contributo, Dario? Sì, perché elezioni in corso, ma anche le proteste nella strada qui a Zurigo da parte degli attivisti per i diritti umani del Bahrain, che contestano la candidatura proprio dello sceicco Al Khalifa, protagonista, sembra, della repressione di quello che è stato proprio la protesta degli attivisti nel 2011 nello stesso Bahrain. Ne abbiamo intervistato uno, sentiamo il suo contributo. We are from Bahrain. We came here today to show the people to stop supporting Salman and shame on you. Siamo venuti qua, ci dice oggi, proprio per mostrare al mondo quello che è stata la repressione dei diritti umani, e qui ancora è, dei diritti umani in Bahrain, con Khalifa principale responsabile. Anche nel caso venisse eletto, la nostra protesta andrà avanti anche nella Coppa del Mondo. Ecco, queste voci arrivano molto sfumate all'interno alle stadium dove si stanno svolgendo, fra poco dove si svolgeranno le operazioni di voto, e ben difficilmente influenzeranno l'orientamento dei 207 membri della FIFA chiamati oggi a esprimere le loro preferenze. Grazie a Dario Ricci, e noi naturalmente anche questo ve lo raccolteremo. Intanto un altro doveroso omaggio. Inizialmente prevista a maggio, è stata anticipata ad oggi l'uscita dell'ultimo libro di Umberto Eco, è morto una settimana fa. Prima pubblicazione della nuova casa editrice La Nave di Teseo, fondata dallo stesso Eco insieme al gruppo storico di dirigenti bompiani, ossia Elisabetta Sgarbi e Mario Andreose. Siamo andati a cercare di capire, qualche anticipazione. Non uno scritto originale, ma una raccolta delle sue famosissime rubriche dell'Espresso, La Bustina di Minerva, che Umberto Eco aveva inaugurato nell'85. In passato erano già uscite due raccolte di bustine. Questo Papè Satana Leppe prende in considerazione gli ultimi 15 anni, con un filo conduttore che è anche il sottotitolo del saggio, Cronache di una società liquida. Un concetto elaborato da Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco, per descrivere l'attualità. Il crollo delle ideologie, dei partiti, la crisi del concetto di comunità che porta all'individualismo, il consumismo sfrenato. Il titolo Papè Satana Leppe, per stessa missione di Eco, è stato scelto per il suo nonsense. Schiera di commentatori, scrive Eco nella prefazione, pensano che non ci sia un significato preciso in questo verso dell'Inferno di Dante. Perfetto dunque per una raccolta che Eco definisce sconnessa per colpa dei tempi. La fine è dedicata a una delle sue ultime polemiche sul web, che dà voce anche a schiere di imbecilli. I giornali, si augura Eco, dovrebbero dedicare almeno 2 pagine al giorno all'analisi dei siti, segnalando quelli virtuosi e quelli che diffondono bufale. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Niente bufale a Radio 24, ci fermiamo solo un attimo, torniamo con la borsa. Effetto giorno. Le notizie di oggi: Roma-Bruxelles, prove di tregua, stiamo aspettando che arrivi a Palazzo Chigi Jean-Claude Juncker tra pochissimo. La Grecia scoppia, l'abbiamo sentito, i migranti premono ai confini, ancora tensione con l'Austria. Oggi a Cipro il vertice dei paesi europei del Mediterraneo per fare il punto con, naturalmente, anche l'Italia. Unioni civili avanti con le adozioni, dice la Cirinnà. Verdini fa litigare il PD, ora il congresso chiede speranza. L'impresa italiana sul Nang a Parbat, Simone Moro conquista la vetta per la prima volta in inverno. Ma ci aspetta anche la borsa. Effetto giorno. È arrivato Juncker a Palazzo Chigi, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, l'incontro sta cominciando in questi minuti. Allora, c'è stata la stretta di mano? Stretta di mano sicuramente c'è stata, perché questo incontro, a detta di entrambe le parti, è un incontro che ha l'obiettivo proprio di ricucire le tensioni dei mesi scorsi sul tema della flessibilità, e dunque una colazione di lavoro che ha questo obiettivo. Durerà circa un'ora e mezza, con tanta carne al fuoco. Il primo dossier che affronteranno i due sembra che sarà quello dei migranti, vista l'emergenza in corso in Europa. Vista l'emergenza ne parlavamo. Colazione della pace, i volti ancora abbastanza rilassati, Alessandra, per il momento. Sì, dunque ancora le immagini non si riescono ancora a vedere, ma sicuramente una colazione di lavoro. L'intenzione è quella. L'intenzione è quella. Allora, torneremo ancora con te, vogliamo capire cosa succede. Grazie. Nel frattempo parliamo di tecnologia e di indagini, perché se negli Stati Uniti si discute di quanto si può o meno violare un telefonino per saperne di più su un indagato, ecco che succede in Italia. Matteo Messina Denaro è l'ultimo della cupola mafiosa degli anni 80-90 rimasto ancora in libertà, la mente operativa delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Nel tempo il suo potere criminale si è esteso, dalla influente provincia di Trapani ha raggiunto i massimi livelli decisionali di Cosa Nostra. Sulla rete il suo fotokit è stato aggiornato decine di volte dagli investigatori, che hanno intercettato, sequestrato, confiscato una parte rilevante del patrimonio di Denaro. Oltre 3 miliardi di euro euro, amministrati da una sorta di famiglia allargata, composta da parenti stretti come la sorella Anna Patrizia, finita in carcere nel 2013, e un gruppo di suoi fedelissimi come Giuseppe Graviano, Fifetto Cannella, Lorenzo Tininello, Vincenzo Sinacori, Francesco Geraci, che ha amministrato il potere economico di Denaro per lunghi anni nel cavò della sua gioielleria. Ma i 3 miliardi di euro oggi nelle mani dello Stato sarebbero, secondo gli inquirenti, solo una piccola parte di ciò che il boss ha accumulato in Italia nei paradisi fiscali di mezzo mondo. E la famiglia si è allargata ad una fittissima rete costituita da ignoti prestanome. L'ultimo bene sequestrato a Denaro è un edificio di Castelvetrano, 49 vani, valore stimato 1,2 milioni di euro, riconducibile a Vito Signorello. L'ultima pista porta direttamente alla rete. Sì, perché prima di essere arrestata, la sorella Anna Patrizia aveva aperto e chiuso un numero elevato di profili Facebook, tutti rigorosamente sotto falso nome, attraverso i quali venivano scambiate comunicazioni tra Denaro e i suoi sodali e tra Anna Patrizia e suo fratello. Non tutti i messaggi però sarebbero stati cancellati e il social network ha fornito l'accesso dei suoi server ai magistrati antimafia, che stanno dunque decifrando in queste ore numeri IP di computer, significati nascosti di alcuni messaggi che sembrano stati scritti con un codice comprensibile soltanto alla cosiddetta famiglia allargata. E dunque potrebbe essere la tecnologia l'ultima pista possibile. Torniamo a parlare di unioni civili. C'è stata l'approvazione al Senato, ci sarà alla Camera. La Bogar politica ovviamente prosegue la sua strada, dicevamo la lite sui voti di Vertini nel PD, ma noi vogliamo anche andare nel concreto di questa legge che, almeno da quel che si può capire, dovrebbe passare così anche alla Camera e quindi diventare operativa in questo modo. Io saluto Manuela Perrone, giornalista del Sole 24 Ore, benvenuta. Grazie Anna, buongiorno a tutti. Allora, un po' di istruzioni per l'uso. Lasciamo da parte le adozioni, lasciamo da parte le questioni sulla fedeltà, perché questa è anche una legge molto pratica che va ad incidere nella vita delle persone. Abbiamo una stima già di chi sceglierà le unioni civili anziché il matrimonio o la semplice convivenza senza alcun contratto? Abbiamo l'unica stima che proviene dalla relazione tecnica che è stata bollinata ieri mattina e approvata in commissione bilancio, che è quella del censimento 2011 dell'Istat, che in Italia aveva rilevato, sempre nel 2011 ovviamente, 7.513 coppie dello stesso sesso, di cui 529 con figli. È l'unico dato certo che abbiamo registrato in Italia ed è un dato che, secondo la stessa Istat, è sottostimato. Allora, un dato che riguarda le coppie omosessuali. A questa legge potranno ricorrere anche le coppie eterosessuali. È tutto un panorama da delineare. Chi lo sceglierà? È tutto un panorama da delineare. Per i conviventi di fatto non abbiamo alcuna stima. Per le unioni civili tra coppie dello stesso sesso abbiamo una proiezione che si basa sul caso tedesco. La Germania ha varato nel 2001 un istituto che è molto simile a quello delle unioni civili che abbiamo l'abbiamo un po' copiato, diciamo la verità. Nel 10 anni dopo le unioni civili registrate in Germania sono state 67.000. Quindi tutte le proiezioni meno anche dei matrimoni? Economiche... Meno dei matrimoni? Sì, meno dei matrimoni. Sì, meno dei matrimoni. Comunque sì. Assolutamente sì. Diciamo, parliamo comunque non di grandi numeri. Il dibattito ha forse lasciato in ombra il fatto che parlassimo di numeri comunque esigui anche dal punto di vista economico. Chi riguarda le coppie omosessuali che non possono accedere al matrimonio, riguardano due eterosessuali, riguardano vari tipi di convivenze. Le unioni civili riguardano soltanto le coppie dello stesso sesso perché non possono accedere al matrimonio. Le convivenze di fatto, che sono l'altro filone della legge, riguardano tutte le coppie, sia etero sia gay, che decidono di eventualmente stipulare un contratto, un patto, tempo e che sono legate, così dice il maxi emendamento, così dice la legge che è stata approvata ieri, stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile. Quindi anche qui capiremo chi lo sceglierà. Ci sono, facciamo anche i veniali, come dicevi tu, dei costi, perché ad esempio viene introdotta la reversibilità che prima per queste persone non c'era. Quanto non c'era, ci costa? In realtà paradossalmente la reversibilità costa meno di un'altra voce. Le tre voci quantificate per decidere poi la copertura della legge sono: al primo posto il minor gettito IRPEF legato all'aumento delle detrazioni fiscali per coniuge a carico. Eh sì, perché cambia la dichiarazione dei redditi, cambiano tante cose. Esatto, e questa è la voce di spesa più grande, che vale, secondo le stime, per il primo anno 3,7 milioni di euro, a salire fino a 3,2 milioni di euro nel 2016, nel primo anno di applicazione della legge, diciamo così, a salire fino ai 16 milioni del 2025. La reversibilità è estesa al partner superstite dell'Unione Civile, secondo le stime dell'INPS, costerà molto meno, e cioè 400.000 euro nel primo anno di applicazione, a salire fino a 6 milioni di euro nel 2025. Però siamo pochissimo, sempre sulle stime, e vedremo nei fatti, perché vedremo quanti in realtà sceglieranno questo tipo di contratto, chiamiamolo così. Solo una battuta: abbiamo visto negli anni passati coppie scegliere un'unione davanti ai sindaci, abbiamo visto a Roma, a Milano. Cosa, che fine fanno? Dovranno rifare tutto? In realtà no, perché sempre la relazione tecnica sostiene che non c'è nessun onere legato alla registrazione delle unioni, che rimane a carico dei comuni, e cita esplicitamente... E quindi sarà il terzo caso? I circa 250 comuni in cui il registro già esiste, e li cita proprio per dire che quei registri funzionano con le risorse già a disposizione delle amministrazioni comunali e di fatto continueranno la loro strada, insomma. Esatto, e 10 anni ha impiegato la Germania per capire dove è andata a finire. Aspettiamo anche noi. Grazie Emanuela Perrone, intanto giornalista del Sole 24 Ore, giusto fare chiarezza anche nel concreto, oltre alle polemiche. Abbiamo tempo ancora per raccontarvi un'ultima storia, veramente dell'incredibile: uno zoo con tanto di scolaresche in gita, ma era clandestino. Lama, dromedari, cavalli, animali da fattoria, tartarughe rare, pesci di vario genere. Un centinaio gli animali tenuti segregati in quello che si è rivelato un vero e proprio zoo abusivo nel paese di Saviano, nel napoletano. A scoprirlo le Fiamme Gialle e la Forestale del Comando Provinciale di Napoli, insospettiti dal continuo flusso di ragazzini e perfino scolaresche che andavano a visitarlo. Oltre alla struttura, adibita a zoo clandestino e priva dei requisiti di igiene e sicurezza, finanzieri forestali hanno scoperto anche un vero e proprio parco giochi per i più piccoli, attrezzato con ristorante, piscina e area relax per i genitori, strutture anch'esse prive di ogni autorizzazione fiscale e amministrativa. Sequestrata l'intera area, 3 tartarughe protette, per ragioni sanitarie, sono state subito trasferite presso un centro veterinario del Corpo Forestale dello Stato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il traffico, poi America 24.